4D. Ascolta e continua. Chiedigli un'informazione. Chiedigliela subito. Consegnagli questa lettera. Consegnagliela subito. Insegnagli la grammatica. Insegnagliela subito. Spiegagli questa regola. Spiegagliela subito. Inviamole questi libri. Inviamoglieli domani. Portiamole dei fiori. Portiamoglieli domani. Presentiamole i nostri amici. Presentiamoglieli domani. Restituiamole i soldi. Restituiamoglieli domani.